Kita Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da via Zanardi in Bologna. Naturalmente potete ascoltarci anche tramite il web, scaricando l'apposita app che troverete sul nostro sito radiocittafujiko.it, rigorosamente senza accento, e che gratuitamente vi permetterà di ascoltarci in tutto il mondo. Mercoledì 10.30 all'incirca è l'orario d'inizio di Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo di ogni genere e di ogni epoca. In realtà mi hanno contestato questo di ogni genere, perché effettivamente sarà molto difficile che possiate ascoltare Casadei in questa trasmissione, ma diciamo così, tutti i generi a me consoni. Comunque, al di là di questo, Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, e anche quest'oggi una novità molto molto succulenta. Vi confesso che ero un po' in crisi di astinenza da Neil Young. Infatti, come sapete, ormai da diversi anni apre periodicamente i suoi archivi e pubblica degli album live, naturalmente, che spesso, anzi sempre oserei dire, vi propongo. Quello di oggi non è una cosa di archivio, ma è un vero e proprio disco live nuovo, nel senso che è stato registrato nel novembre dello scorso anno. Ma prima vi ricordo solamente che Neil Young viene da Toronto in Canada e che partì nel 1963, quindi lascio a voi il conteggio degli anni di attività di Neil Young. E iniziò con questa band che si chiamava Squires, e poi passò ai Buffalo Springfield e poi a Crosby, Stills, Nash & Young, e appunto alla propria carriera solista che lo ha visto supportato da diverse backing band. L'album che vi presento oggi è un singolo album, un singolo CD, si chiama Fucking Up, come una delle sue canzoni che fra l'altro ci ascolteremo. È un album che è stato registrato in un teatro, in un piccolo teatro di Toronto, per una manifestazione benefica. Il teatro si chiama Rivoli ed è stato registrato, come vi dicevo, il 4 novembre del 2023, quindi direi che è recentissimo. Il tutto è composto da canzoni che sono tutte provenienti da un album che si chiama Rage Glory, album che è uscito nel settembre del 1990, ma siccome Neil Young, con tutto il bene che gli voglio, qualche rotella fuori posto ce l'ha, tutti i brani che compongono questo album hanno titoli diversi da quelli originali. E infatti quello che ci andremo ad ascoltare si chiama, nell'album che vi propongo, Heart of Steel, cuore di ghiaccio, cuore di acciaio, scusate, e invece nella versione originale si chiama proprio Fucking Up. Yeah. è accreditato a Neil and the Horse, questo Fucking Up del quale ci siamo ascoltati la title track. Horse naturalmente sono i Crazy Horse, band che da sempre accompagna, seppur saltuariamente, il grande Neil Young. E fra l'altro questa Fucking Up la ricordiamo anche usata spesso nel bis dai Pearl Jam durante i loro concerti. È un album che è veramente molto molto molto bello, secondo me è un po' che da Neil Young non usciva una cosa del genere, e lo consiglio veramente caldamente a chi ama il canadese, ma anche a chi non lo ama, perché al di là di tutto è un ottimo album, si chiama Fucking Up. E come vi dicevo, sia Neil Young che questo Fucking Up arrivano da Toronto, Canada, che è la città più popolosa del Canada, con più di 2.750.000 persone, quindi tantissime. Naturalmente è la capitale dell'Ontario ed è una delle capitali economiche del Canada, una delle grandi città nordamericane. È ben rappresentata in tutti gli sport americani, i professionisti naturalmente, baseball, hockey, basket, football e anche il soccer, il nostro calcio, e naturalmente ha un mucchio di posti in cui si può ascoltare buona musica. E naturalmente nella prima parte di questa trasmissione ci ascolteremo dei brani che sono stati registrati nella capitale dell'Ontario. Ed è con molto piacere che iniziamo da una band italiana, la band che ha avuto tantissimo successo negli anni 70 e che ha fatto tour a livello mondiale, appunto anche negli Stati Uniti e in Canada. In queste due nazioni è stato registrato il loro primo album live, che in Italia si chiamava Live in the USA, mentre negli Stati Uniti si chiamava semplicemente Cook. Una parte è stata registrata a New York City e l'altra è stata registrata invece a Toronto, Canada, appunto. Cook, il long play originario, è stato pubblicato nel 1974, invece c'è un triplo box che comprende l'album originale più l'intero concerto di New York, che è stato pubblicato nel 2010 e che vi consiglio caldamente anche in questo caso. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato appunto a Toronto il 22 agosto del 1974 e ce lo presenta lo stesso Mauro Pagani. Thank you. Grazie. I'm gonna play a song called Falls in the Ground. Thank you, grazie. Sometimes it seems that what remains of truth and rebellion is wine shared with friends, a sunset music, words and answers that stars are touching our eyes, so it was to love you. Butterfly, and just so what's the first, the food of that man's whispering in your ticket as you fall out, and the crystal bones are we'll Ho colpevolmente dimenticato di dirvi che in questa prima parte della trasmissione ci ascolteremo registrazioni effettuate in quel di Toronto, Canada, da parte di bands e artisti non americani. Infatti dopo la PFM, che ci siamo ascoltati con Four Holes in the Ground, sono arrivati i nordirlandesi, anzi irlandesi, Thin Lizzy, che sono inconfondibili con la doppia chitarra, e questo brano che si chiama The Boys Are Back in Town. Il tutto è stato registrato al Seneca College Fieldhouse dell'Università di Toronto il 28 ottobre del 1997. Seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. Take a straight and stronger course to the corner of your life. She hasn't got time to make anytime you want to. But just remember that the goal is for us all to capture all we want. satisfied, I'm on my way. I see talking people turn their heads these days, so satisfied, I'm on my way. Uno dei brani della mia top 10 personale si chiama I've Seen All Good People, Your Move. In realtà sono due uniti, ma uniti da sempre, per cui il titolo è questo. Sono Yes, naturalmente, avrete capito e li avrete riconosciuti, anche questi molto originali, soprattutto nella voce fenomenale, angelica, paradisiaca di John Anderson. L'album che ci siamo ascoltati viene da un cofanetto che si chiama Progeny, Seven Shows from 72, perché sono sette doppi CD che racchiudono sette concerti che gli Yes fecero a cavallo fra ottobre e novembre negli Stati Uniti / Canada. Anzi, il primo concerto fu addirittura in Canada, in Maple Leaf Gardens, il 31 di ottobre del 1972. Un cofanetto assolutamente spettacolare. Gli Yes non erano proprio il massimo dell'improvvisazione, e infatti i sette concerti sono praticamente, mi dispiace dirlo, tutti uguali. Ma per un amante degli Yes e della musica dal vivo come chi vi sta parlando è una cosa assolutamente imperdibile. Si chiama, lo ripeto, Progeny, Seven Shows from 72, ma c'è anche un highlights di questo Progeny che in due dischetti racchiude il meglio delle registrazioni effettuate in quelle occasioni. Oltre ad essermi dimenticato prima di dirvi che ci ascolteremo solamente bands non americane in questa prima parte della trasmissione, ho anche fatto un errore, un lapsus, è stato più che un errore voluto. Il brano dei Thin Lizzy che ci siamo ascoltati, dei Boys Are Back in Town, non è stato registrato nel 97, chiaramente, nel 97 Phil Lynott era già morto e sepolto, e bensì il 28 di ottobre del 1977. Prego di scusarmi di questo errore, e per scusarmi adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra bellissima cosa. Loro sono King Crimson, altra band che ha formato quella che è la mia indole, la mia coscienza, la mia cultura, fra virgolette, o subcultura musicale. Naturalmente Robert Fripp da sempre. Qui abbiamo questo album che si chiama Live in Toronto, che è stato registrato con l'ultima formazione conosciuta dei King Crimson, quella con le tre batterie, al Queen Elizabeth Theater il 20 di novembre del 2015. Il brano che ho scelto per voi però è un brano classico della prima parte della trasmissione, della prima parte, oggi va così, della prima parte della produzione dei King Crimson. Si chiama The Letter. With quill and silver knight, she carved a poison pen, wrote to her lover's wife, her husband's seed has fed my flesh. As if a leper's face that tainted letter grace, the wife with choked stone throat ran to the day with tear blind. Thank you.

hope today. Make all your love to me. Non credo siano molto conosciuti dalle nostre parti Catherine Wheel, è un quartetto che viene dalla Gran Bretagna, che è stato attivo dal 1990 al 2000, poi si è sciolto e ognuno dei componenti ha intrapreso strade diverse. Loro hanno fatto 5 album in studio e alcuni singoli con brani live tipo questo, il brano di punta di questo CD single si chiama Ma Solituda e contiene questo Delicious, che è stato registrato al Warehouse di Toronto il 14 dicembre del 1997, e stavolta il 1997 è vero. Concludiamo alla grande, forse troppo grande addirittura. Sto parlando degli U2, che negli ultimi decenni, oserei dire, hanno un po' esagerato, ma questa è un'opinione molto personale. Qui abbiamo un altro singolo, ha come brano di punta Walk On e due brani dal vivo in seguito. Il primo è stato registrato a Boston, per cui per il momento non ci interessa. Il secondo invece è stato registrato all'Air Canada Center di Toronto, appunto, che è stata la città su cui abbiamo focalizzato la nostra attenzione in questa prima parte della trasmissione, perché questo è l'ultimo brano della prima parte. E dicevo, è stato registrato l'Air Canadian Center di Toronto il 25 di maggio del 2001, quindi siamo all'incirca in territorio Record Today. Il brano è un super classico della band, si chiama Stay Far Away So Close. Right, what we'd like to do now is go live from Toronto to London to the Secret Policeman's Bar, which is a mysterious and extraordinary event that certainly changed my life when I was, I don't know, changeable. I still am. This is Stay. Green light, 7-Eleven. You stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke, don't even want to. Hey now. So you check your change, dressed up like a car crash. The wheels are turning, but you're upside down. You say when it hits you, you don't mind. Because when it hurts you, you feel alive. Oh man, is that what it is? Red lights, gray morning. You stumble out of a hole in the ground. A vampire or a victim. It depends on who's around. He used to stay in to watch the adverts. You could lip sync to the talk show hosts. And if you look, you look through me. And when you talk, it's not to me. And if I touch you, you don't feel a thing. With the static and the radio waves and satellite television, you can't go anywhere. Miami, New Orleans, London, Belfast, from Toronto. You just might fall. And if you shout, I'll only hear you. If I could stand, I would give you up. Stand, the day would keep his rest. It's the ground. Champagne. Fucicco Live Club, 15 maggio 2024, seconda parte, iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, nuovo album live per Neil Young, album molto molto molto bello, si chiama Fucking Up e è stato registrato in quel di Toronto da Neil Young insieme ai Crazy Horse, che per l'occasione hanno una formazione veramente super. Infatti, oltre alla solita coppia ritmica Billy Talbot al basso e Ralph Molina alla batteria, abbiamo Micah Nelson, figlio di cotanto padre e nonché il leader dei Promise of the Real, e Nils Lofgren alla chitarra e al piano, ma spero che tutti lo conosciate. L'album, come dicevo, è stato registrato a Toronto nel novembre del 2023 e ha questa particolarità che comprende tutti i brani di Raged Glory, album uscito nel 1990, ma con i titoli cambiati a parte uno, che è quello che ci siamo ascoltati, e infatti il brano si chiama Farmer John. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora una volta tantissime ma tantissime cose. Più ci avviciniamo all'estate, più concerti all'aperto ci sono, più festival ci sono, più registrazioni ci sono, ma il criterio di scelta è sempre quello, un brano per ogni decade. Iniziamo dal 1970 insieme a una super band, una band che esula dal fatto musicale in sé, ma è diventato un fatto di costume. Si chiamavano Grateful Dead, spero che li conosciate tutti, sono stati attivi dal 1965 al 1995, l'anno della morte del loro leader Jerry Garcia. Poi si sono avvicendati tanti altri gruppi che suonavano la stessa musica, ma non era la stessa cosa. Dei Grateful Dead, fra il periodo di attività appunto 65-95 dello scorso secolo e postumi, sono usciti, non sto scherzando, centinaia di album dal vivo. Pensate che ci sono due serie, Dix Peaks, che è arrivata a 36, poi anche lì purtroppo Dick Lavala ci ha lasciato, e poi è partito Dave col suo Dave Peaks, che è attualmente a 50, quindi solo queste fanno 86. più tutti gli album ufficiali, fra cui quello che ci andiamo ad ascoltare. Questo è stato registrato in occasione di diversi concerti, si chiama Fallout from the Phil Zone. Phil Lesh è il bassista che è stato sempre nella band dei Grateful Dead, poi ha formato appunto lo scioglimento dei Grateful Dead tante altre band, e ha scelto personalmente questi brani che sono andati a formare l'album, appunto Fallout from the Phil Zone. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Fillmore East di New York City 15 maggio 1970 e si chiama Easy Wind. Loro sono Grateful Dead. So by your today, there's a whole lot of women out on the streets in red today, and the river keep a talking, but you never hear the word it say. Been falling to shine the black steel jackhammer, been chipping them blocks for the great highway. I live 5 years if I take my time, balling that jack and drinking my wine. Easy wind blowing across the bayou today. Chipping them rocks from dawn till doom, mama rider had my bottle in the other room. Doctor say you better stop falling that jack, if you live 5 years he gonna bust your back. Yes he will. Easy wind cross the bayou today, yeah. In the red that way, and the river keep on talking, but you never hear the word it say. kind of woman, be good to me. Won't hide my liquor, try to serve my tea. Cause I'm a stone jack baller and my heart is true. I give everything that I got for you, yes I will. Easy will. Blowing Porsche by your today. There's a whole lot of women out on the streets in the red that we. And the river keep a talking, but you never. Si chiama Easy Wind, Fillmore East, New York City, 15 maggio 1970, ad aprire Record Today di oggi. Questa canzone è stata appunto scelta personalmente da Phil Lesh, bassista di Grateful Dead, per essere inserita in un doppio album che si chiama Fallout from the Phil Zone, dove ci sono tutti i brani che ha scelto lui apposta per essere pubblicati. Un'altra grande band che a me piace tantissimo, si chiamano Georgia Satellites tuttora, ma quella di adesso c'entra poco con quella che in realtà è stata fino al 1990, anno in cui Dan Baird, che era il leader, il cantante e chitarrista, ha lasciato la band. Dopo loro hanno continuato, ma non è più la stessa cosa. 12 pollici ormai di tantissimi anni fa, il loro brano di punta, il loro brano più famoso si chiama Keep Your Hands to Yourself, ma sul retro di questo 12 pollici in vinile c'è un medley fantastico che si chiama Night of Mystery, Waiting for My Man, anzi for the man a dire il vero. Intanto ce lo introduce lo stesso Dan Baird, e il tutto registrato al Town & Country Club di Londra appunto il 15 maggio del 1987, e purtroppo il finale è sfumato, e me ne scuso, ma il brano vale la pena lo stesso. Si chiama, lo ripeto, Night of Mystery, I'm Waiting for the Man, Georgia Satellites. We got a little record out that just came out real recently that we mighty damn happy about. And the song on it we're going to do right here is called The Nights of Mystery. And if y'all know what I'm talking about, y'all right. And if you don't know, you ain't worth a damn. That right there is the rhythm of life. You know, there's sometimes I just sit around and wonder about what is and what would never be. But you know, I'd much rather find myself lost out on the sweet nights of mystery, yeah. Be caught out. hear me calling, baby. All I need is one fine moment of intuition and clarity. Just one fine, fine moment, baby. That's all I ever need in this life for me. Yes, it is. I'm not as strong as I seem. Quattro ragazze incassatissime venivano da Londra, anzi spero per loro che vengano da Londra, ma come band sono durate dal 1994 al 1998 e si chiamavano Fluffy, come ha detto esattamente Bridget Jones, che era una delle due chitarriste, nome che ricorda la famosa eroina di qualche film che non ho seguito molto, ma so che è molto famosa. Comunque i Fluffy, come vi dicevo, le Fluffy hanno pubblicato un solo album in studio e alcuni singoli e un EP, che è quello che ci siamo ascoltati, si chiama Five Live, dove guarda caso ci sono 5 canzoni che sono state registrate al CBGB di New York City il 15 maggio del 1998. Il brano in particolare è l'ultimo del quintetto e si chiama Scream. Entriamo negli anni 2000 con una registrazione del 2003 effettuata da un personaggio che da tantissimo sulle scene, lo è tuttora, con alterne fortune. Lui arriva dalla Virginia, ma è cresciuto sia come ragazzo che come musicalmente in quel di San Antonio, Texas. Si chiama Steve Earle, solitamente insieme ai Dukes, ma anche in veste, chiamiamola solista, come in questo caso, anche se poi c'è sempre una band di supporto. Una piccola curiosità così che mi ha colpito è che lui è stato sposato 7 volte, dico 7 volte, e 2 volte con la stessa ragazza, per cui ci ha ripensato, ma questo non c'entra assolutamente niente con la musica. L'album che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama An American Boy, è stato registrato in diverse occasioni e in diverse località. Steve Earle è un personaggio molto molto coinvolto politicamente, naturalmente diciamo un po' virato a sinistra, è sempre molto critico con l'amministrazione americana, a volte un po' troppo, visto che è stato anche molto sotto gli occhi della polizia, dell'FBI americana, è stato anche in prigione per possesso di droga, insomma ne ha avuto un po' di tutti i colori. Qui abbiamo un album, come vi dicevo, che si chiama An American Boy, dove fra un brano e l'altro, o come introduzione fra un brano e l'altro, appunto parla della situazione politica americana. Vi tralascio questo perché ci andiamo ad ascoltare quello che è il suo più grande successo, è stato registrato al Club Elements di Kitchener in Ontario, in Canada naturalmente, visto che prima eravamo sempre in Canada. Il tutto il 15 maggio del 2003, il pezzo è naturalmente Copper Road. Thank you. Parade Road. Penny on the side, shot a cool primer and looked inside. When an alcohol engine down, I still remember that rumbling sound. Then shaking around the middle of the night, heard my mechanic somewhere. Steve Earle ha un rapporto speciale con il Canada, visto che, con Ontario in particolare, visto che anche il suo primo album Shoot Up Like an Aviator è stato registrato per buona parte in Ontario, fra London, una città che si chiama così, e lo stesso Toronto. E il brano invece che ci siamo ascoltati è stato registrato a Kitchener, e il Club Elements si chiama Copper Road, era il 15 maggio del 2003. A concludere Ricordi Today di oggi ci pensa una band americana, vengono da Cincinnati, Ohio, ed è attiva dal 1999, ha una particolarità, è un quintetto, però ci sono due coppie di fratelli all'interno, di cui una addirittura di gemelli, si chiamano Desner questi gemelli. Hanno fatto diversi album, tutti molto incensati dalla critica, ottimo successo anche commerciale. Qui abbiamo il loro quinto album, che si chiama High Violet, è stato pubblicato nel novembre del 2010, ma poi è stata pubblicata anche dopo pochi mesi una Expanded Edition, dove allegato c'è un Extended Play con tre brani dal vivo, che sono quelli che interessano noi, e in particolare interessa questa England, registrata all'Academy of Music di Brooklyn, New York City, e che ci andiamo ad ascoltare. Loro si chiamano National, il brano, lo ripeto, si chiama England, come la nazione. feeling that I lost today. Someone sent a runner through the weather that I'm under for the feeling that I lost today. Someone sent a runner for the feeling that I lost today. You must be somewhere in London. You must be loving in life and the rain. You must be somewhere in London. I don't even think to make a record. Famous angels never come through England. England gets the ones you never. I'm in a Los Angeles cathedral. Mine is singing and sing for me. Just reach for the stars. Questo era National England, il brano registrato all'Academy of Music di Brooklyn, New York City, il 15 maggio 2010, a concludere Recorded Today di oggi. Molto velocemente a concludere invece Città Fujiko Live Club, ci pensa Neil Young con la sua novità, pochi secondi purtroppo, perché vi devo anche ricordare appunto che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club ogni mercoledì più o meno dalle 10.30, un paio di ore di musica dal vivo. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio appunto a Neil Young, Feels Like a Railroad, per qualche secondo in attesa del giornale Radio Network.